posso dire solo questo. Quando penso a ciò che fai, ogni istante tu per me, Padre, che mi svegli la mattina e mi segui ovunque vado, dirigendo i passi miei. Padre, guardo un bimbo e vedo te, guardo un fiore e scopro te, alzo gli occhi e ci sei tu. No, no.